Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le voci dei violini della grande orchestra da ballo erano sommerse dal tripudio degli strumenti a fiato. Lentamente, al braccio di Giambattista, scendevo lo scalone per salutare all'ultimo gradino l'imperatore dei francesi, ospite dei suoi marescialli. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. L'inno. La canzone di Marsiglia, il canto della mia prima adolescenza. Una volta stetti in camicia da notte sul balcone della nostra Villa Bianca e gettavo delle rose ai nostri volontari, al sarto Franchon e al figlio del nostro calzolaio, il giovane dalle gambe storte, e ai fratelli Levi che avevano vestito i loro abiti domenicali perché come cittadini di pari diritto dovevano difendere contro il mondo intero la giovane Repubblica. Quella Repubblica che non aveva allora abbastanza denaro per provvedere di scarpe ai suoi soldati. Formez vos bataillons, marchons, marchons. Frusciarono strascichi di seta, risuonarono sciabole da parata. Noi ci inchinammo fino a terra, apparve Napoleone. Quando avevo visto Napoleone per la prima volta, non ero riuscita a spiegarmi perché accettassero nell'esercito degli ufficiali così piccoli. Adesso egli dava anche più risalto alla sua bassa statura, si circondava degli aiutanti più alti che riusciva a scovare e compariva nella semplice tenuta di generale. Il braccio di Giuseppina si sciolse dal suo, la testolina col diadema di diamanti si inchinò nel saluto, Murat si curvò sulla mano di lei sovranamente protesa. «Come state, madame?» domandò l'imperatore alla grassa Berthier e senza darle tempo di rispondere si rivolse subito alla marescialla più vicina. «Sono lieto di vedervi, madame. Dovreste sempre mostrarvi vestita di verde Nilo, è un colore che vi dona. D'altra parte il Nilo in realtà non è affatto verde, è giallo. Nel mio ricordo scorre con onde giallo-ocra». Sulle guance della signora interrogata ardevano delle macchioline rosse malsane. «Vostra maestà è troppo cortese», bisbigliarono le macchioline. «Io stavo pensando se proprio tutte le teste coronate, quando compaiono, si comportino come Napoleone, o se lui già si sia preparate queste frasette recise perché crede che i monarchi debbano intrattenersi così con i propri sudditi». Giuseppina intanto dispensava alle mogli dei marescialli il suo studiato sorriso dipinto. «Come state? La vostra bambina ha la tosse convulsa? Ne sono stata rattristata quando l'ho saputo». Ciascuna di esse aveva l'impressione che l'imperatrice avesse atteso da più giorni con tutto l'essere suo il momento di rivederla. Nella scia di Giuseppina si muovevano le principesse imperiali, Elisa e Carolina con gli occhi semichiusi, arroganti, Paulette in stato di visibile ebbrezza dopo una cena animata. Ortensia, rigida e ansiosamente preoccupata di mostrarsi amabile, e la mia Giulia, pallida e disperata, sopraffatta dalla sua timidezza. Poi Murat e Giuseppina avanzarono lentamente attraverso la sala da ballo. Napoleone veniva dietro al braccio di Madame Berthier, lievemente ansante per la commozione. Noi altre li seguimmo. Mille vesti di seta frusciarono negli inchini di corte. Ad ogni momento Giuseppina si fermava per dire a qualcuno due parole cortesi. Napoleone conversava soprattutto con uomini. Innumerevoli ufficiali della provincia erano stati invitati in rappresentanza dei loro reggimenti. Napoleone li interrogava sulle loro guarnigioni. Sembrava che conoscesse il numero dei pidocchi di ciascun baraccamento militare di Francia. «Come farò adesso ad attirarlo nel palco 17?» pensavo io, scoraggiata. «Prima dovrò bere un bicchiere di champagne», conclusi. «Poi troverò il coraggio». Venne servito lo champagne. Napoleone rifiutò. Stava sul podio presso il suo trono e si faceva raccontare qualche cosa da Talleyrand e da Giuseppe. Giuseppina mi chiamò a sé e disse: «Non sono riuscita in questi giorni a trovare i pendenti di zaffiro, me ne sono dispiaciuta tanto. Oh, Vostra Maestà è molto gentile, ma non potevo ugualmente comparire in abito azzurro». «Siete contenta della toilette di Leroy, madame?» Non detti risposta all'imperatrice. Nel brulichio della sala avevo riconosciuto una faccia rossa, quadrata. «Conosco quella faccia», pensai subito. Il collo corto era chiuso nel bavero di un uniforme di colonnello. «Della toilette della casa Leroy?» ripeté l'imperatrice insistente. Oh sì, certamente, molto contenta, disse in fretta. Accanto alla faccia quadrata si muoveva la testa di una signora dai capelli tinti di giallo limone e con un'acconciatura impossibile. Provincia, pensai. Un colonnello di qualche guarnigione provinciale? La signora non la conosco, ma lui. Poco dopo mi riuscii di girare sola per la sala. Il dubbio non risolto mi inquietava e cercai perciò di arrivare inosservata in prossimità di quei due. Tutti gli invitati si scostavano per lasciarmi passare e bisbigliavano Madame la marescialla Bernadotte. Degli ufficiali si inchinavano profondamente, delle signore inalberavano un sorriso convulso. Io rispondevo sorridendo, sorridevo, sorridevo, tanto che alla fine mi dolevano gli angoli della bocca. Così giunsi vicinissima al mio colonnello. E udì che sibilava la signora dalla pettinatura impossibile. Ma quella è la piccola Clarì. Di colpo seppi chi era quel colonnello. Aveva smesso la parrucca col codino, ma per il resto gli anni erano passati senza lasciare traccia su di lui. Probabilmente era ancora comandante della fortezza di Marsiglia. Il piccolo generale Giacobino, che 10 anni prima lui aveva fatto arrestare, era diventato intanto imperatore dei francesi. Vi ricordate ancora di me, colonnello Lefebvre? Dissi ad un tratto. La signora, dalla pettinatura impossibile, si inchinò goffamente. «Madame la marescialla!» sussurrò. «La figlia di François Clary!» disse contemporaneamente la faccia quadrata. Poi tutti e due attesero, impacciati, la mia prossima frase. «Oh, è un pezzo che manco da Marsiglia!» continuai. «Madame, vi si annoierebbe, un centro di provincia deserto!» disse la signora dalla pettinatura assurda e alzò le magre spalle. Se desiderate essere trasferito, colonnello Lefebvre, incominciai guardando nei suoi occhi azzurri ed acquosi, potreste parlare di noi all'imperatore? Esclamò eccitata Madame Lefebvre. No, ma al maresciallo Bernadotte, risposi. Ho conosciuto molto bene il vostro signor papà, incominciò il colonnello. In quel punto sussultai la polonaise di gala. Dimenticai le Fabre, raccolsi senza ritegno il mio strascico e tornai indietro di corsa. Tutti si scostavano, crollando il capo. Mi comportavo di nuovo scandalosamente. Murat doveva aprire la polonaise con Giulia. L'imperatore doveva condurre Madame Berthier attraverso la sala e io dovevo mettermi in fila con Giuseppe. Il ballo era già cominciato. Giuseppe se ne stava solo accanto ai troni e mi aspettava. Non riuscivo a trovarvi, Désirée, sibilò stizzito. Oh, scusatemi, mormorai e subito ci unimmo alle coppie danzanti. Ogni tanto mio cognato mi lanciava delle occhiate rabbiose. Non sono abituato ad aspettare, ringhiò. Sorridete, vi prego, gli bisbigliai incollerita. Sorridete! Finì che molti sguardi si rivolsero verso il fratello maggiore dell'imperatore e la moglie del maresciallo Bernadotte. Ancora un paio di contraddanze e poi gli invitati si precipitarono al buffet. Napoleone si era ritirato proprio in fondo al palcoscenico e discorreva con Duroc. Io feci cenno al cameriere che serviva lo champagne e mi avvicinai a Sua Maestà. Subito Napoleone interruppe la sua conversazione. Devo darvi una notizia, madame. Un piccolo rinfresco? Domandai e con l'aristocratico gesto della mano che avevo imparato da Monsieur Montel accennai allo champagne. Napoleone e Duroc presero ciascuno un bicchiere. Alla vostra salute, madame, disse cortesemente l'imperatore, beve il solito sorsetto e depose il bicchiere. Ecco, volevo dirvi, madame. Napoleone si interruppe. E improvvisamente mi squadrò da capo a piedi. Non vi ho detto una volta che siete molto bella, signora marescialla? Oh, se vostra maestà permette, vorrei. Va pure, Duroc, dedicati alle signore, gli gridò dietro l'imperatore. Poi riprese ad osservarmi in silenzio. A poco un sorrisetto incominciò a giocherellare intorno alla sua bocca. Vostra maestà desidera farmi una comunicazione? Dissi io. E subito buttai fuori. Se mi è concesso di esprimere un desiderio, sarei molto grata a Vostra Maestà se ci potessimo recare nel palco numero 17. Napoleone, da principio, credette di non avere ben udito. Si chinò un po' in avanti, inarcò le sopracciglia e ripeté: Nel palco numero 17? Io assentii con fervore. Napoleone fece scorrere lo sguardo sul palcoscenico. Giuseppina stava discorrendo con innumerevoli signore. Giuseppe sembrava che tenesse una conferenza a Talleyrand e all'imbronciato Luigi. Le uniformi dei marescialli guizzavano scintillando tra le coppie danzanti. Gli occhi di Napoleone si fecero piccini e presero a sfavillare. È conveniente questo, Eugeniuccia? Oh, sire, vi prego di non fraintendermi. Palco numero 17? È abbastanza chiaro, mi pare. E subito in fretta. Ci accompagnerà Murat. Faremo miglior figura. Murat, come tutti gli altri del suo seguito, non aveva cessato di osservarci di sottecchi. Bastò un cenno e accorse fulmineo. Madame Bernadotte ed io andiamo in un palco. Indicaci la strada. In tre lasciamo il palcoscenico. In tre percorremo la larga via formata dalla gente che sempre si scosta e cede il passo quando compare l'imperatore. Sulla stretta scala che sale ai palchi, alcune coppiette disturbate si sciolsero all'improvviso. Alcuni giovani ufficiali passarono addirittura d'un balzo da un dolce abbraccio alla posizione d'attenti. Io trovavo tutto questo molto buffo, ma Napoleone dichiarò: "Questi giovani hanno dei modi troppo liberi. Desidero che intorno a me si abbia un contegno ineccepibile." Un momento dopo eravamo davanti alle porte dei palchi. "Grazie, Murat." Gli occhi di Napoleone andavano cercando i numeri sulle piastrine degli usci. "Vostra maestà desiderava farmi una comunicazione? È una buona notizia?" "Sì, abbiamo preso in considerazione la domanda del maresciallo Bernadotte, che desiderava un comando indipendente con un'estesa amministrazione civile. Vostro marito sarà nominato domani governatore dello Hannover. Mi congratulo con voi, madame. Si tratta di un incarico importante e di grande responsabilità." "Hannover?" mormorai io, e non avevo la più lontana idea di dove si trovi lo Hannover. "Se farete visita a vostro marito in Hannover, abiterete soltanto in castelli reali e sarete la prima signora del paese. E lì, a destra, ecco il palco numero 17." Eravamo a pochi passi soltanto dalla porta del palco. "Entrate prima voi e assicuratevi che le tende siano ben chiuse", disse Napoleone. Aprì l'uscio del palco e me lo chiusi in fretta alle spalle. Sapevo molto bene che le tende erano tirate e chiuse. "Ebbene, figlia mia", disse Madame Letizia quando entrai. "Aspetta qui fuori e non sa che voi siete qui, Madame Mère", dissi in fretta. "Non essere così agitata, non ti costerà la testa", disse Madame Letizia, energica. "No, ma potrebbe costare a Giambattista il posto di governatore", pensai. "Adesso lo chiamo, Madame", bisbigliai. "Le tendine sono tirate e ben chiuse", annunciai di fuori. Volevo poi cedere il passo all'imperatore e scomparire in fretta alle sue spalle, ma Napoleone mi spinse senz'altro nel piccolo vano. Là io mi serrai subito alla parete e gli diedi via libera. Madame Letizia si era alzata in piedi. Napoleone restò come inchiodato in piedi presso la porta. Attraverso le pesanti cortine filtravano le note di un molle valzer viennese. "Ragazzo mio, non vuoi augurare la buonasera a tua madre?" disse Madame Letizia tranquilla e intanto avanzò di un passo verso di lui. "Se lei adesso si inchina soltanto un pochino, tutto andrà bene", pensavo. L'imperatore non si mosse. Madame Letizia fece ancora un passo. "Madame Mère, che bella sorpresa", disse Napoleone immobile. Un altro passo e Madame Letizia gli fu ormai vicinissima. Curvò la testa e gli diede un bacio sulla guancia. Senza pensare al cerimoniale, passai davanti all'imperatore. Egli ricevette un piccolo urto e cadde esattamente tra le braccia della madre. Quando ricomparvi di sotto nella sala, Murat mi venne subito incontro. Il suo naso schiacciato fiutava come il muso di un segugio. "Già di ritorno, madame?" Io lo guardai stupita. "Ho detto all'imperatrice che Bernadotte sarebbe stato lieto di essere chiamato a colloquio da lei e a Bernadotte ho fatto cenno di avvicinarsi all'imperatrice, così nell'una nell'altro hanno badato a quello che succede nei palchi." "A quel che succede nei palchi?" domandai. "Che cosa intendete dire, maresciallo Murat?" Murat era così immerso nella sua conversazione con me che non si accorse del ronzio di molte voci sorprese di cui tutta la sala risuonava. "Voglio dire, In un palco dove avete condotto l'imperatore, disse in tono confidenziale. Ah, il palco numero 17. E perché mai Giambattista e l'imperatrice non dovrebbero sapere quel che succede in quel palco? Lo sa già tutta la sala, risi io. La faccia sbalordita di Murat era impagabile. Alzò la testa, seguì gli sguardi di tutti gli altri invitati e vide, sì, vide che nel palco numero 17 l'imperatore stava scostando le tende. Vicinissima a lui comparve Madame Letizia. Despreaux fece un cenno all'orchestra. Uno squillo echeggiò nella sala e uno scrosciante applauso lo seguì. Carolina non sapeva affatto che sua madre è ritornata a Parigi, disse Murat e mi squadrò geloso. Credo che Madame Mère voglia sempre vivere accanto al figlio che ha più bisogno di lei, dissi pensierosa. Prima con Luciano esiliato e adesso con Napoleone incoronato. Si ballò sino all'alba. Mentre Giambattista mi faceva girare tra le spire dei valzer, gli domandai: Dov'è lo Hannover? In Germania, rispose lui. È il paese da cui ha avuto origine la famiglia reale d'Inghilterra. La popolazione ha terribilmente sofferto negli anni della guerra. Sai tu chi reggerà d'ora in poi lo Hannover come governatore francese? Non ne ho la più lontana idea, disse Giambattista e non me ne. Si interruppe, lasciò a mezzo la frase, lasciò a mezzo il tempo del valzer, si chinò vicinissimo al mio viso e mi guardò negli occhi. È vero? Mi domandò soltanto. Io annuì. Adesso glielo farò vedere, mormorò e riprese a ballare. A chi farai vedere e che cosa? Come si amministra un paese? Lo farò vedere all'imperatore e a ciascuno dei suoi generali, soprattutto ai generali. Farò dello Hannover un paese contento. Giambattista parlava molto in fretta e io sentivo che era felice. Felice per la prima volta dopo tanti, tanti anni. Strano che egli in questo momento non pensasse affatto alla Francia, ma a Hannover. Hannover, un paese della Germania. Abiterai nel Palazzo Reale? Domandai. Naturalmente, sarà certo la miglior residenza, rispose con indifferenza. Non gli faceva nessuna impressione. Improvvisamente mi accorsi che Giambattista non dubitava affatto che la migliore residenza fosse proprio quella che ci voleva per lui. Il castello del re d'Inghilterra ad Hannover è quello che ci vuole per l'ex sergente Bernadotte. Come mai? Tutto ciò mi sembra così mostruoso. Ma Giambattista cessò di ballare soltanto quando i violinisti riposero i loro strumenti ed ebbe termine la festa dei marescialli. Prima di partire per Hannover, Giambattista esaudì ancora un mio desiderio e fece trasferire a Parigi il colonnello Lefebvre. La faccenda delle mutande di Napoleone gli suggerì l'idea di collocarlo all'amministrazione dei depositi, dove egli non si occupa che delle uniformi, delle scarpe e della biancheria delle nostre truppe. Il colonnello e sua moglie vennero da me per ringraziarmi. Conoscevo molto bene il vostro signor padre, era una persona molto per bene, il signor papà. I miei occhi si inumidirono, sorrisi. Avevate ragione allora, signor colonnello. Un Bonaparte non è un partito adatto alla figlia di François Clary. Sua moglie trattenne il fiato dallo sgomento. Era delitto di lesa maestà. Il colonnello divenne paonazzo per il turbamento, ma sostenne il mio sguardo. Avete ragione, marescialla, borbottò. Bernadotte sarebbe certamente piaciuto di più anche al vostro compianto signor padre. Napoleone vuole essere informato di tutti i trasferimenti degli ufficiali superiori e quando vide in un elenco il nome del colonnello Lefebvre, restò pensieroso per un attimo. Poi diede in una grande risata. Ah, il colonnello delle mie mutande! Bernadotte gli fa amministrare adesso tutte le mutande dell'esercito per far piacere alla marescialla. Murat ha raccontato in giro questo episodio e adesso tutti chiamano il povero Lefebvre il colonnello delle mutande dell'esercito francese. In una vettura da viaggio tra Hannover in Germania e Parigi nel settembre 1805. L'imperatore ha proibito il nostro calendario repubblicano. La mia povera mamma sarebbe stata tanto contenta. Lei non ci si poteva abituare. Siamo stati tanto felici ad Hannover, Giambattista, Oscar ed io. Soltanto per via dei preziosi pavimenti intarsiati del Palazzo Reale ci fu qualche litigio. Che Oscar pensi che il pavimento lucido del salone sia stato fatto apposta, perché il figlio del governatore militare vi scivoli sopra tutto spiano, non mi meraviglia. È un birichino di 6 anni, ma che tu! Crollava il capo e in lui la stizza lottava con le risa. Ed io promettevo solennemente ogni volta di non prendere mai più la rincorsa con Oscar, per poi sfrecciare via sdrucioloni su tutto il pavimento intarsiato, lucido come uno specchio. Questo succedeva nel salone da ballo del castello degli ex re di Hannover e nella residenza di Monsignor Giambattista Bernadotte, maresciallo di Francia, governatore del reame di Hannover. Rinnovavo ogni volta la mia promessa e poi, il giorno dopo, non sapevo resistere alla tentazione e mi lasciavo ancora trascinare da Oscar nelle scivolate. Era proprio una vergogna, perché io sono la prima signora del reame di Hannover e ho una mia piccola corte composta di una lettrice, di una dama di compagnia e delle mogli degli ufficiali di mio marito. Purtroppo qualche volta me ne dimentico. Sì, siamo stati felici ad Hannover e l'Hannover è stato felice con noi. Ciò può sembrare strano, poiché l'Hannover è un territorio di conquista e Giambattista è il comandante di un'armata di occupazione. Dalle 6 del mattino alle 6 della sera e dopo cena fino a notte inoltrata, lui stava curvo sulle innumerevoli carte al suo scrittoio. Giambattista ha incominciato il suo governo in questo paese germanico, introducendovi i diritti dell'uomo. In Francia è stato sparso molto sangue per rendere uguali tutti i cittadini. Nel paese nemico di Hannover è bastato un tratto di penna, la firma Bernadotte. Così è stata abrogata la pena della fustigazione, i ghetti sono stati aboliti e agli ebrei è ora concesso di scegliersi tutte le professioni che vogliono. I levi di Marsiglia non sono andati inutilmente in guerra allora, indossando i loro abiti festivi. Un ex sergente sa anche molto bene ciò che è necessario per il mantenimento di un corpo d'occupazione e i tributi che sono stati imposti ai cittadini di Hannover non sono tali da opprimerli. Giambattista ha fissato esattamente l'importo di tutte le imposte e nessun ufficiale è autorizzato a porre tributi di sua iniziativa. Del resto i cittadini del paese guadagnano più di prima. Perché Giambattista ha abolito le barriere doganali e in questa Germania sconvolta dalla guerra, Hannover sta come un'isola che pratica traffici da tutte le parti. Quando i cittadini di Hannover divennero addirittura ricchi, Giambattista inasprì lievemente le imposte e con il denaro eccedente acquistò del grano e lo mandò nella Germania del Nord, dove c'è carestia e fame. La gente di Hannover crollava il capo, i nostri ufficiali si battevano la fronte, ma nessuno può rimproverare altri di essere una persona di cuore. Infine, Giambattista consigliò alla gente d'affari a stringere amicizia con le città anseatiche e di guadagnare in questa maniera parecchi quattrini. Le deputazioni che ricevettero questo consiglio restarono a bocca aperta, perché è il segreto di Pulcinella che le città anseatiche non osservano rigorosamente il blocco continentale dell'imperatore e continuano a mandare e a ricevere navi con carichi di merce dall'Inghilterra. Ma se un maresciallo di Francia dà questo consiglio ai suoi poveri e asserviti nemici. Quando il commercio fiorì rigoglioso, anche le casse dello Stato di Hannover si riempirono. Giambattista poté mandare delle forti somme all'Università di Gottinga. Là insegnano adesso alcuni dei maggiori scienziati d'Europa. Giambattista, naturalmente, è fiero della sua università ed è contento quando si curva sulle sue scartoffie. Qualche volta, tuttavia, lo trovo chino su dei grossi libri. Quante cose deve imparare un sergente tanto ignorante? Mormora allora, senza alzare gli occhi, e distende la mano. Io mi avvicino e lui si mette la mia mano sulla guancia. Tu governi troppo, gli dico io a sproposito, ma lui non fa che scuotere la testa. Studio, ragazzina, e cerco di fare del mio meglio. Non sarà difficile, purché lui ci lasci tranquilli. Tutti e due sappiamo a chi allude. Ad Hannover sono ingrassata. Non abbiamo passato le notti a ballare e neppure abbiamo dovuto assistere lungamente in piedi a parate militari, in ogni caso non mai più di 2 ore. Per riguardo a me, Giambattista riduceva le riviste delle sue truppe. Dopo cena i nostri ufficiali con le loro signore si raccoglievano quasi sempre nel nostro salotto. Discutevamo lì le notizie che ci giungevano da Parigi. Sembrava che l'imperatore stesse sempre preparando il suo attacco contro l'Inghilterra. Soggiornava sulla costa della Manica e Giuseppina continuava a far debiti, ma di questo sì, bisbigliava soltanto. Ogni tanto Giambattista invitava dei professori di Gottinga che cercavano, in uno spaventoso francese, di spiegarci le loro teorie. Uno di essi, una volta, ci lesse in tedesco un dramma scritto dall'autore di quel romanzo da comodino, il Werther, che noi nei tempi andati avevamo divorato. Questo poeta si chiama Goethe, e io facevo dei segni a Giambattista perché facesse finire quel martirio. Noi capiamo troppo poco il tedesco. Un altro ci raccontò di un grande medico che adesso esercita a Gottinga e che avrebbe ridato l'udito a molta gente. Questo interessò molto Giambattista perché molti dei nostri soldati, per via del fragore dei cannoni, sono diventati sordi e improvvisamente esclamò: «Ho un amico che dovrebbe rivolgersi a questo professore, sta a Vienna, gli scriverò che vada a Gottinga e potrà venire a farci visita. Désirée, tu devi conoscerlo, è un musicista che ho incontrato a Vienna quando ero ambasciatore in Austria. È un amico di Kreutzer, sai?» Naturalmente fui presa dallo spavento. Col pretesto dei troppi doveri di rappresentanza sono riuscita a convincere Giambattista che non ho più tempo per le mie lezioni di piano e per quelle di contegno, e lui pure ha avuto tanto da fare che non mi ha più controllata. Il pianoforte continua a suonarlo senza entusiasmo e per quel che riguarda le belle maniere, proprio allora, con quei due o tre gesti graziosi che avevo imparato da Monsieur Montel, avevo fatto sgomberare ai miei ospiti la sala da pranzo e li avevo spediti nei salotti. Per una figlia di un mercante di sete che da un giorno all'altro va a stare nel castello dei re di Hannover, me l'ero cavata abbastanza bene. Ma adesso avevo una maledetta paura di dover suonare al cospetto di questo musicista di Vienna. Ma non andò così. Mai dimenticherò quella sera che il musicista di Vienna venne a trovarci. La serata incominciò così bene. Oscari, coi occhi sfavillano sotto solo che gli capiti di udire della musica, tanto mi tormentò che ebbe il permesso di restare alzato più del solito. E Oscar ne sapeva più di me riguardo al concerto imminente. Questo musico viennese si chiama... Dio mio, mi sono scritta il suo nome, un nome molto straniero, probabilmente germanico. Ecco, si chiama Beethoven. Giambattista aveva dato ordine che tutti i componenti dell'antica orchestra di corte di Hannover si mettessero a disposizione di questo Beethoven di Vienna e facessero delle prove con lui per 3 mattine nel salone. E naturalmente proibì anche di scivolare sul pavimento, ed io mi comportai in maniera assolutamente degna della mia condizione. Invece Oscar era molto eccitato. Papà dice che è uno degli uomini più grandi che lui conosce. Quanto può essere grande? Più grande di un granatiere? Della guardia dell'imperatore? Papà non vuol dire che è grande nella persona, vuol dire che è grande nello spirito, nell'anima. Ecco. Probabilmente è un uomo geniale. Questo intende papà per un granduomo. Oscar rimuginava, poi disse: più grande di papà? Presi nella mia mano il piccolo pugno appiccicoso di Oscar, entro cui stava nascosta una caramella mezzo succhiata. Questo non lo so, caro. Più grande dell'imperatore, mamma? In quel punto il domestico, che sedeva a cassetta accanto al nostro cocchiere, si voltò e mi guardò incuriosito. Io non battei ciglio. Nessuno è più grande dell'imperatore, Oscar, risposi tranquillamente. Forse non può udire neppure la sua musica, almanaccava ancora Oscar. Forse, risposi distratta, e mi sentii improvvisamente triste. Avrei voluto educare mio figlio diversamente, pensavo, come un uomo libero, proprio secondo le idee di papà. Il nuovo maestro che l'imperatore personalmente ci aveva raccomandato per Oscar e che è arrivato qui da un mese, ha cercato di istruire il bambino nel compimento del catechismo che adesso deve essere insegnato in tutte le scuole di Francia. Noi dobbiamo al nostro imperatore Napoleone I immagine di Dio sulla terra, rispetto, ubbidienza, lealtà, servizio militare. Ultimamente capitai nella stanza di studio di Oscar e da principio pensai di non aver udito bene. Ma questo giovane maestro dal torace ristretto, già allievo scelto della scuola militare di Brienne, che si piega in due come un coltello da tasca ogni volta che vede Giambattista e me, e che quando crede di non essere veduto affonda gli speroni nel mantello del cane, trovato ed allevato da Fernando, questo maestro, insomma, scelto da Napoleone, ripeté le parole. Non c'era più ragione di dubitare. L'imperatore Napoleone I, immagine di Dio sulla terra? Non mi piace che il bambino impari queste cose. Lasciate andare questo compimento del catechismo, dissi. Ma viene insegnato in tutte le scuole dell'impero? È legge, disse il giovanotto e senza dar tono alle sue parole soggiunse: Sua Maestà prende molto interesse all'educazione del suo figlioccio. Ho la consegna di informare regolarmente Sua Maestà. Si tratta niente meno che del figlio di un maresciallo di Francia. Prima mi hanno fatto scuola le monache, pensai. Poi hanno arrestato, cacciato le monache e ci hanno detto a noi bambini che Dio non esiste, che esiste soltanto la ragione. Dovemmo adorare questa ragione e Robespierre le fece perfino erigere degli altari. Poi venne un tempo nel quale nessuno si occupò della nostra fede e ciascuno poteva credere quello che gli garbava. Quando Napoleone diventò primo console ci furono un'altra volta dei preti che giuravano fedeltà non alla Repubblica ma alla Sacra Romana Chiesa. E da ultimo Napoleone costrinse il Papa a venire da Roma a Parigi per incoronarlo e introdusse di nuovo la religione cattolica come religione dello Stato. E adesso ecco che lui fa insegnare nelle scuole un compimento del catechismo. Ai contadini si tolgono i figli dai campi perché marcino nelle armate di Napoleone. Ci vogliono 8.000 franchi per avere la dispensa dal servizio militare e 8.000 franchi per un contadino sono una grossa somma. Per questo si decidono a tenere nascosti i loro figli e i gendarmi arrestano come ostaggi mogli, sorelle, fidanzate. Del resto i disertori francesi nascosti non contano più granché. I principi vinti devono armare dei reggimenti per dimostrare di servire l'imperatore. A migliaia, a decine di migliaia, i giovani vengono strappati dalle loro case e marciano per Napoleone. Giambattista si lagna spesso che i suoi soldati non possono capire la nostra lingua e che i suoi ufficiali devono impartire i comandi per mezzo di interpreti. Perché mai li fa marciare Napoleone questi ragazzi? Sempre nuove guerre, sempre nuove vittorie. Le frontiere della Francia ormai non hanno più bisogno di essere difese. La Francia non ha più frontiere. O forse non si tratta più della Francia? Si tratta solo di lui, di Napoleone, dell'imperatore? Non so per quanto tempo siamo rimasti a guardarci, questo giovane maestro ed io. Ebbi improvvisamente la sensazione di aver vissuto in questi ultimi anni come una sonnambula. Da ultimo mi voltai e mi avviai per uscire. Ripetei soltanto: lasciate da parte questo compimento del catechismo. Oscar è ancora troppo piccolo, non sa che cosa significhi. Poi mi tirai dietro l'uscio. Nel corridoio non c'era nessuno. Affranta, mi appoggiai alla parete e incominciai a piangere, smarrita. È troppo piccolo, singhiozzavo, non sa che cosa significhi. Per questo tu vuoi che i bambini imparino. Proprio per questo un popolo intero ha sanguinato per i diritti dell'uomo. E quando è stato esausto e i diritti dell'uomo erano proclamati, ti sei messo semplicemente a capo di questo popolo.